Linee d'ombra di Matteo Caccia. Io sento un trasporto così forte con lei che è rimasto come se anche a questa età molto avanzata, la sento come se il rapporto fosse stato sempre una continuità. È nato così uno degli amori più belli, anche se virtuali, in età avanzata, e Tony sente adesso con certezza di amare Fanny in modo serio ed intenso. Storie di amori senili e di video call in una puntata che si intitola Innamorarsi da lontano. Ah, mi sta certamente venendo qualcosa. Forse un tumore fulminante, ne girano parecchi. Non hai nessun tumore. Che ne sai? Se hai tanta paura vai da un dottore. Tanto mi dice che non ho niente. Ci riesci a dormire? No, ma non fa niente. Allora che fai? Sto sveglio e mi lamento. Anzi, comincio subito. Buonanotte, Harry. Buonanotte. Harry, ti presento Sally. Arriva da lì questo pezzo che vi abbiamo proposto in apertura di puntata. Credo che Harry, ti presento Sally sia uno dei film che vengono maggiormente citati quando si parla di storie d'amore, quando si parla di storie di amore che nascono da rapporti di amicizia. In questa scena i due protagonisti sono lontani, sono ciascuno a casa propria. Perché la puntata di oggi, che si intitola Innamorarsi da lontano, parla di quello? In realtà parla di due lontananze diverse. La prima è che è una storia straordinaria, è una lontananza di carattere temporale, di due persone che si incontrano molto giovani e si rincontrano invece anziane, direi molto anziane. La seconda invece parla di una distanza fisica, e distanza fisica ha proprio a che fare col periodo che stiamo vivendo, cioè con il distanziamento fisico, con il fatto che non solo in Italia ma in tutto il mondo la quarantena ha colpito le persone, man mano che il virus raggiungeva i confini di un paese, quel paese in qualche modo chiudeva, non tutti allo stesso modo, però in sostanza si cercava di mantenere le distanze. E la domanda che molte persone si sono fatte è stata: ci si può innamorare a distanza, ciascuno da casa propria? Cioè, considerato che le app di incontri hanno continuato a essere visitate, le persone, soprattutto chi viveva nelle grandi città e che magari era single ed era a casa da sola, aveva voglia di condividere qualcosa con qualcuno di cui potesse o almeno aveva l'idea di potersi innamorare. Beh, è successo e oggi vi racconteremo proprio una di quelle storie. Ma la prima storia che vi raccontiamo, la storia di Tony, è una storia particolare per un paio di motivi almeno. Il primo è che noi abitualmente qui a Linee d'Ombra raccontiamo storie in prima persona, cioè il protagonista parla di sé e racconta cosa è accaduto, cosa gli è accaduto. In questo caso invece Tony, non so se per una forma di pudore o per abitudine alla scrittura di questo tipo, l'ha scritta in terza persona, quindi parla di questo protagonista, di Tony e di questa Fanny, come se fossero due estranee. In realtà Antonio è lui, ma soprattutto perché noi di solito, e spero l'abbiate capito, insomma direi di sì anche dalle storie che ci mandate a lineedombra@radio24.it, noi di solito raccontiamo un episodio, cioè un pezzo ristretto della vita, non raccontiamo tutta la vita. Questa storia che ci ha mandato Tony invece era lunghissima, credo fossero 15 o 20 pagine, al punto che noi quando le leggiamo a casa, io, Mauro Pescio, Anita Panizza, quando arrivano delle storie così lunghe siamo un po' affranti perché abbiamo paura di non poterle raccontare tutte, a meno di trovare un blocco, un piccolo blocco che le rappresenti. E fortunatamente con la storia di Tony e di Fanny l'abbiamo trovato, ed è un blocco che racconta due momenti appunto molto lontani della vita di queste due persone, che sono le loro giovinezze e poi l'età più avanzate, e in mezzo c'è tutta quanta una vita. Ma davvero, in questo caso, nonostante io non creda nello spoiler, non voglio spoilerare niente, nemmeno spolverare niente, non ci tengo proprio, quindi vi chiedo semplicemente di mettervi comodi, alzare un po' il volume e cominciare ad ascoltare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Fanny era una semplice e bella ragazza quindicenne, gioiosa, piena di vita, di grande intelligenza. Aveva una voce melodiosa. Conversare con lei era un grande piacere, i suoi ragionamenti coinvolgevano ed erano condivisibili. Il suo incedere era aggraziato, il suo gesticolare armonioso. A scuola era bravissima, mentre Tony non prometteva negli studi. Tony e Fanny erano cugini. Tony si sentì proiettato in cielo quando un giorno, nell'attraversare la strada, lei gli prese la mano con molta grazia. Tony, infinitamente timido, era convinto di aver trovato la sua ragazza ideale, ma non ebbe il coraggio di esternarle il suo sentimento, anche perché, per la sua giovane età, non aveva alcuna posizione sociale né aveva grandi speranze di emanciparsi. Tony custodì gelosamente nel suo cuore, per quasi tutta la vita, questo nobile sentimento. Io avevo questa fantasia, questo rapporto molto forte con lei, perché quando l'ho conosciuta, l'ho rivista grande, a 15 anni, lì mi sono imbaghito. Lei è stata molto disponibile, molto buona, base carattere, per natura, è sempre altruista, aiuta gli altri, quelli che hanno bisogno, ecco, è una persona particolare. E questo io l'avevo capito fin da allora, a 17 anni, le sue qualità che erano stupende, e di questo mi sono innamorato. Per cause di forza maggiori, i due giovani, Tony e Fanny, seguirono strade diverse. Lei, superata brillantemente la maturità liceale, superò anche gli esami della maturità magistrale. Questo le consentì di poter insegnare giovanissima nella scuola elementare. Si iscrisse all'università, nella facoltà di lettere, conseguendone la laurea nei tempi previsti, cosa che le consentì di poter insegnare poi nelle scuole medie. In questo percorso lavorativo Fanny affrontò molti e diversi sacrifici per poter raggiungere le sedi scolastiche sparse nei paesi delle montagne dei Nebrodi e delle Madonie in Sicilia. Sopraggiunsero i primi amori, ma solo uno di questi colpì il cuore di Fanny. L'incontro con il suo Luigi, che sposò dopo qualche anno. Da questo amore, dopo aver tribolato diversi anni per le difficili gravidanze, lei ebbe la gioia di avere due figli. Fanny non fu fortunata negli anni successivi. Perdette il marito Luigi subito dopo essere andati entrambi in pensione. Molto coraggiosamente affrontò la nuova triste situazione con determinazione e sostenne ed aiutò i propri figli a completare gli studi universitari e le relative specializzazioni. Ora è una nonna felice per avere tre bellissimi ed intelligenti nipoti. Breathe. Tony ebbe un percorso diverso. Gli anni giovanili furono anni difficili per lui e la sua famiglia. Non era molto studioso. Il giorno in cui doveva iniziare una nuova attività lavorativa, sua madre gli dette l'ultima opportunità. Se prometteva di studiare con profitto, superando l'anno scolastico, gli avrebbero consentito di proseguire negli studi. Di fronte a tale allettante proposta, quanto mai giusta e sacrosanta, Tony promise a se stesso e a sua madre che era intenzionato a continuare quegli studi. Finiti, infatti, iniziò a lavorare. Nel tempo, non potendo progettare nulla con Fanny, ebbe la fortuna di conoscere Adele, una brava e buona maestrina di Reitano, sempre in provincia di Messina. E innamoratosi, dovette seguire le regole vigenti in quel paese, quindi scrisse alla futura suocera le sue intenzioni, nonché la sua posizione sociale. I due giovani si sposarono nel 61 e dalla loro unione nacquero 3 figli. Vissero felicemente assieme per ben 56 anni, fino a quando lei si ammalò di demenza senile, di Alzheimer. Tony, già in pensione, trovò il tempo di interessarsi maggiormente di politica, cominciò a scrivere articoli, prevalentemente per un quotidiano. Gli articoli redatti da Tony, lui li inviava periodicamente anche alla cugina Fanny, con cui non aveva mai interrotto i rapporti, e lei, contenta di riceverli, ne approvava i contenuti. Ma è nato un rapporto così bello, così di un'affettuosità unica. Diverse volte nel discutere con lei si sono avuti, insomma, dei rapporti un po' tesi in campo della, parlando di politica economica, politica generale. Abbiamo dei motivi, anche sotto un aspetto culturale, abbiamo dei momenti di contrasto che io ero sul punto di dire: se ti trovi in difficoltà e vuoi rompere questo rapporto, no, io non ho difficoltà. Lei mi ha pregato: io non voglio perderti. Questo mi ha commosso, non la voglio perdere, perché è un'anima molto particolare, molto gentile, molto umano. E questo mi ha commosso e non riesco a sganciarmi da lei. La perdita della moglie Adele mise in crisi Tony. La cugina Fanny, non ricevendo più le pubblicazioni riportate dal giornale, gli chiese chiarimenti e, con una lettera dalla quale traspariva sofferenza e disperazione, lui la informò della grave perdita che aveva subito. Qualche tempo dopo, Tony, con nostalgia, ricordò a Fanny quei pochi momenti bellissimi che aveva vissuto a Partinico e rivelò pure che in quelle occasioni si era innamorato perdutamente di lei. Fanny rimase stupita, ma nel frattempo cercò di consolarlo, mandandogli una lettera di solidarietà, scritta con grande saggezza. A lungo andare ci fu sempre una maggiore intesa. In Tony si risvegliò prepotentemente il primo amore della sua vita, mentre Fanny si trovò coinvolta in questo sentimento di amore puro, perché affascinata dalla maniera di pensare di Tony, col quale sentiva di avere in comune i fondamentali valori della vita. È nato così uno degli amori più belli, anche se virtuali, in età avanzata, e Tony sente adesso con certezza di amare Fanny in modo serio ed intenso. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo esiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. E dimmi ancora tutto quello La puntata di oggi si intitola Innamorarsi da lontano e l'avete sentita, la storia di Antonio è una storia che noi quando l'abbiamo letta in redazione ne siamo usciti entusiasti, perché ci dice tantissime cose, ma soprattutto ce ne dice una, ed è che l'amore e i sentimenti, sembra una banalità, ma la sua storia ha dimostrato che non lo è, l'amore e i sentimenti non hanno età. Pronto, ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno a te, Matteo. Antonio, è un grande piacere parlare con te. Tu hai un'età, tu hai un'età, diciamo, dalla voce sembra che io tu abbia 89 anni. Ho 89 anni e noi, tu non sai noi quanto ti invidiamo, tutti noi qui in redazione, Antonio, perché tu quello che ci racconti è che la vita non si ferma mai fino a quando dura. Mai, mai, questo è vero, non si ferma mai, Matteo. E soprattutto che il sentimento non ha età. No, questo è vero, io non pensavo che potesse durare tanto questo sentimento, però è perché io nel tempo, pur avendo conosciuto la mia compagna a 17 anni, di cui lei non conosceva niente di questo sentimento che io nutrivo per lei, io l'ho continuata sempre avere questo sentimento chiuso nello stigno del mio cuore. Le volevo un bene da matte, la trovavo anche in tempi molto lunghi, sempre l'andavo a trovare dopo 5 anni, 6 anni, la trovavo sempre, e sono passati diversi anni, ma io avevo sempre un sentimento che poi è maturato quando ho avuto la disgrazia che ho avuto perdendo mia moglie. Tua moglie, in quel momento così triste ho avuto lei che mi ha consolato, e questa è la cosa più bella, ed è rinato in quell'occasione questo sentimento più profondo nei suoi confronti della mia compagna. È una cosa molto bella. Tu vivi da solo, Antonio, vero? Non vivete insieme? Sì, da solo, ancora sono autonomo. Bravissimo. E quando vi vedete, riuscite a vedervi o è solo una, o vi scrivete e basta? No, ci vediamo quando il tempo ce lo permette, perché ha figli, ha nipoti, certo, a cui devo badare, certo, per dare lezioni private, perché lei era professoressa, insegnante di italiano, e quindi si insegnava, e quindi il nipote va spesso da lei per chiedere aiuto nelle versioni di latino, in italiano, insomma è molto impegnata lei con i nipoti. Anche tu però, Antonio, continui a lavorare, scrivi ancora, giusto? No, scrivo, sì, io scrivevo un tempo per l'Avanti, io per 2 o 3 anni ho scritto, okay, alcuni articoli di natura economica, però insomma nel tempo poi avendo trattato tutti gli argomenti con molto interesse come uomo della strada che è interessato ai problemi del nostro paese, ma ho visto che i risultati sono stati peggiori ho desistito dallo scrivere, non scrivo più, ecco, Matteo, mi è passata la voglia. Senti, ma invece tornando a voi due, i vostri figli lo sanno o non lo sanno, o sanno in parte? Allora, i miei figli lo sanno, okay, e sono un po' di comprensione ce l'hanno nei miei confronti, mentre i figli, i loro familiari della mia compagna, e lei non ha detto nulla, è molto riservata, okay, molto pudica, è una vecchia scuola, lei ha 87 anni pure, non è che è giovane, quindi ancora ha i retaggi dei costumi di allora, di un tempo. È molto difficile, sono questi. Infatti mi ha molto colpito nella tua storia quando dici che per avere in sposa tua moglie quando eravate giovani tu hai dovuto chiederlo, sì, alla madre, giusto? Io allora su questo argomento io potrei mandarvi un'altra storia che è molto più quando interessante. Vuoi. Poi la manderò, va bene, certo. Ma è tutto, c'è una procedura di un tempo da noi, dalle nostre parti, specialmente in Sicilia, che i rapporti tra uomo e donna erano molto difficili, tant'è vero che quando io mi fidanzai con una certa difficoltà con questa mia futura moglie, non ho avuto una vita facile nel periodo di fidanzamento, non è che si poteva abbracciare o dare dei baci, erano delle cose molto furtive, molto, molto difficili da poter, e quindi poi ho deciso, beh, sposiamoci così. Ho potuto completare il sogno. Antonio, quando è che avete in mente, quando riuscite a vedervi tu e la tua compagna adesso? Ora speriamo nel mese di giugno, quando finisce questa limitazione di spostarsi nella stessa nazione, certo, e quando si potrà viaggiare da una regione all'altra, quando si è agevolati in questo movimento, allora senz'altro ci potremo vedere. Certamente, anche perché ho visto delle immagini di Mondello in questo periodo che è un paradiso. Sì, ma alla nostra età questo magari sarà più difficile poter soffrire di questi, ma comunque per me non è un problema, il fatto di poterla vedere mi soddisfa, perché a 89 anni non è che si può avere le velleità di un giovane, no? No. Ma comunque a me è sufficiente poterla vedere e poter stare un po' con lei. Guarda, Tony, io ti ringrazio davvero per due motivi. Primo, perché sapere che insomma si può arrivare a quasi 90 anni e avere voglia così come te di raccontare, di stare con le persone, è già una storia straordinaria. La seconda cosa è che in realtà tu ci stai dicendo che l'amore romantico esiste. Esiste, esiste e va frequentato. Esiste. Matteo, esiste veramente, sai? Io non lo pensavo. Anch'io avevo dei punti di critica quando da molti anni fa vedevo degli anziani che amoreggiavano fra di loro, ma un po', mi sembrava tutto strano che non fosse possibile, mentre è possibile, Matteo. È possibile. Io ti auguro che tu arrivi a tanta età e possa avere i sentimenti che ancora avvengono nel mio cuore. Guarda, io ho 45 anni quest'anno, Antonio, e spero di averne altri 50 come te. Me lo do come obiettivo. Antonio, a presto, in bocca al lupo, grazie, per tutto. Grazie mille. Tanti saluti. Ciao. Grazie, Matteo. Dress all in black. Cigarette behind the ear and your hair slicked back like New York City chaps. Somebody to love. Splendida la storia di Antonio e splendida anche la chiacchierata con lui, davvero immaginare di avere 89 anni e di vivere così la vita in ogni sua sfaccettatura sembra un dono, o forse no, sembra un modello da seguire, chi lo sa. Prima bisogna arrivarci, 89 anni, e poi magari si può seguire anche il modello di Antonio. Comunque grazie ancora, qualsiasi storia ci vogliate mandare, lineedombra@radio24.it. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Linee d'ombra. Come vi dicevo in apertura, la seconda storia di oggi parla di amore a distanza, ma non distanza temporale, distanza spaziale. È una storia molto attuale, è stata scritta qualche settimana fa su un sito che noi qui leggiamo molto spesso, si chiama Narratively, da un uomo che vive a New York ed è chiuso nel suo appartamento per via della quarantena e usando un'app di incontri si innamora a distanza di una donna che sta anche lei a casa sua, ma in un altro quartiere di New York. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sdraiata comodamente sulla schiena, Ali mi guarda negli occhi e mi regala un altro dei grandi sorrisi che ho imparato ad apprezzare subito dopo averla incontrata la scorsa settimana, grazie ad un'app per appuntamenti. È il nostro terzo appuntamento, i primi due sono andati estremamente bene, con una conversazione senza soluzione di continuità, che ha rivelato visioni del mondo simili, piacevole senso dell'umorismo e perfino la confessione di alcune rispettive vulnerabilità. Mi chiedevo quanto tempo mi ci sarebbe voluto per portarti a letto, le dico. Lei scoppia in una risata, considerando le nostre attuali circostanze. In effetti è la prima volta che vengo accolto nella camera da letto di Ally, ma questa esperienza è resa possibile solo grazie alla magia della tecnologia della videocomunicazione contemporanea. Eh sì, il corteggiamento nella quarantena del coronavirus del 2020 funziona così, a distanza, da schermo a schermo. «Sei così bella», dico nel mio telefono dal mio letto, nel mio appartamento del Queens. E Ally mi ringrazia a chilometri di distanza, da Brooklyn, da casa sua. Questa sera, in un tentativo di normalità, abbiamo cenato tutti e due con piatti fatti in casa, pollo, riso e broccoli al vapore nel mio caso e pasta e hamburger nel suo. Mentre chiacchieravamo in video chat su Zoom, vestiti come se ci fossimo trovati in un ristorante. Io indossavo un blazer, una camicia e una cravatta, mentre lei indossava un abito primaverile e orecchini penzolanti. Ora siamo al telefono, su FaceTime. La conversazione si sposta sul sesso e sulla nostra possibile compatibilità in quel campo. Dopo circa 5 minuti diventa evidente che siamo molto compatibili, o almeno così pare. In qualche modo è come se ci scambiassimo calore tra i nostri schermi, quasi come se fossimo sdraiati uno accanto all'altro. Quando chiedo ad Ally di sbottonarsi la parte superiore del vestito, la cosa accade con spontaneità, senza sforzo, come tutte le nostre altre interazioni. A questo punto le dico che sono eccitato. Ma lei questa frase purtroppo non la sente tutta. Il mio schermo infatti diventa nero all'improvviso e il telefono si spegne. Merda. Mi rendo conto di aver fatto l'errore da novellino di non caricare il telefono durante questo terzo appuntamento, che a questo punto è forse l'equivalente del dimenticarsi di portare un preservativo a un appuntamento nella vita reale. Quando la mia batteria si riprende, l'umore è cambiato, ma meglio così. Probabilmente non avrei dovuto avventurarmi così presto in quel territorio. Mercoledì 11 marzo Tom Hanks ha annunciato di avere contratto il coronavirus, la NBA ha rinviato le partite a tempo indeterminato e il presidente Trump ha sospeso la maggior parte dei viaggi dell'Europa. Anche se a New York mancava ancora più di una settimana alla chiusura, tutte queste notizie sono state sufficienti per tenermi chiuso nel mio appartamento, tranne che per le escursioni in farmacia e al supermercato e per l'esercizio fisico sotto forma di passeggiate nel mio quartiere. Il panico per me, però, è arrivato molto presto. Alcuni magazine e siti con cui lavoro come autore freelance hanno smesso di pubblicare storie di scrittori che non siano dipendenti per problemi di budget. Ero preoccupato di potermi sostenere finanziariamente, lavoravo 2 o 3 ore al giorno, nonostante la minaccia la mia situazione finanziaria non aiutasse. Purtroppo le vecchie abitudini sono dure a morire, soprattutto sotto stress. Non avevo ancora ripreso a bere alcol, ma la mia idea di fare esercizio fisico si era dissolta molto velocemente. La consegna del cibo a domicilio ha sostituito le insalate salutari e ho reinstallato sul mio telefono le app per incontri. E così, sabato 28 marzo, con New York City che a quel punto era l'epicentro globale della pandemia, Ally ha messo un like al mio profilo. I'm Ero già finito in così tanti vicoli ciechi per via delle app di incontri che mi ero stancato di tutta la faccenda degli abbinamenti. Ma il suo grande sorriso nella foto profilo mi ha spinto a matchare con lei. Anche lei è una giornalista freelance, ha 45 anni, qualcuno più di me, quindi ho pensato che avesse qualche esperienza di vita alle spalle e che fosse disposta a investire in una relazione. Le probabilità di un legame sentimentale sembravano scarse, anche solo perché probabilmente non avrei potuto vederla di persona per mesi. Forse potevamo essere amici e creare un nuovo legame che ci avrebbe aiutato a superare la pandemia, o forse c'era spazio per entrambe le cose, chi lo sa. Ci siamo scambiati solo un paio di messaggi prima che io le scrivessi: se ti senti a tuo agio, preferirei non continuare a scrivere, preferirei una telefonata o una video chat, che te ne pare? Per la prima volta in assoluto ho fissato un incontro amoroso su Zoom, online, per le 19 di quella sera stessa. Mi sono sentito vittorioso vedendo il volto di Ellie e sentendo la sua voce attraverso il mio portatile. Abbiamo parlato per circa 1 ora e 20 minuti, raccontando entrambi come stavamo affrontando la quarantena. Il nostro secondo appuntamento su Zoom, un paio di notti dopo, è durato 2 ore. Abbiamo chiacchierato delle nostre famiglie, della nostra vita lavorativa. Non flirtavamo ancora tra noi, ma dopo aver chiuso il mio portatile sono stato colpito dal desiderio di baciarla. Dopo il nostro terzo appuntamento, Ali ed io abbiamo avuto un altro incontro di Zoom per un caffè, quella domenica. E poi altri 2 appuntamenti quella settimana, incluso un cinema, guardando Indovina chi viene a cena su Netflix alla stessa ora, ciascuno a casa propria, e chiacchierando su Zoom appena finito il film. Ali sembra diventare sempre più bella ogni volta che le parlo. E la cosa che mi piace di più è la sua straordinaria capacità di eludere gli approcci cinici alla vita e di viaggiare invece su un livello alto e ottimista, guardando ogni piccola cosa con una prospettiva luminosa. Alla fine di una chiamata improvvisata su FaceTime il 10 aprile, ho cominciato a cercare indizi su quanto fosse forte il suo sentimento nei miei confronti. Dovevo finire un lavoro e ho dovuto riagganciare, ma qualcosa dentro di me spingeva a rimanere al telefono con lei. Rassegnandomi alla fine della nostra conversazione, le ho detto: sai cosa, magari più tardi fammi sapere che ti manco e se è una cosa che accade. Lei si mise a ridere e disse: certo. Qualche minuto dopo mi ha scritto: mi manchi, con l'emoticon di una faccina sorridente ma a testa in giù. Io ho fatto una ricerca del significato di quella faccina rovesciata e mi sono fatto l'idea che sì, anche lei era un po' spiazzata dal fatto che questo rapporto potesse in qualche modo essere così speciale. Quando le ho confessato l'idea di scrivere questo pezzo dicendole che come titolo proporrei qualcosa come innamorarsi ai tempi del coronavirus, le ho chiesto con un certo timore se le sembrava un titolo giusto e lei mi ha risposto sì, direi di sì, facendo fare un sospiro di sollievo. In effetti ho scritto proprio l'altro giorno nel mio diario, mi ha detto, che penso che ci stiamo innamorando l'uno dell'altra. Nonostante tutto non stiamo ancora ufficialmente usando la parola amore. Penso che entrambi sappiamo che sarebbe assurdo ancora. Tutto quello che possiamo fare è continuare a conoscerci, in sicurezza, su Zoom. Il che è comunque fantastico. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another mountain. The mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. What the world needs now is love, sweet, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet, sweet love. No, not just for some, but for everyone, Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams. the only thing that there's just too little love, too little love. What the world needs now is love, sweet love. La storia che vi abbiamo raccontato, come vi dicevo, è una storia molto molto recente, che è stata scritta credo una decina di giorni fa da Michael Stahl, che è appunto l'autore del tutto ed è il protagonista della storia. Si intitola Help, I Think I'm Falling in Love Over Zoom, cioè aiuto, ho paura di starmi innamorando attraverso Zoom. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare qui i vostri diari dalla ripartenza. Linee d'ombra. Qualche giorno fa, ormai credo un mesetto fa, nei diari della quarantena avevamo raccontato la storia di una giovane donna che era rimasta bloccata in Olanda. Era andata a trovare la sorella e il marito della sorella e la giovane nipote, la giovanissima nipote. Era scoppiata la pandemia e si era ritrovata là. Evidentemente lei, insomma, si è ascoltata, ha voglia di raccontarci e quindi ci ha mandato questo nuovo diario dalla ripartenza, che lei ha diviso in piccole fasi. Sto per compiere i 3 mesi di esistenza alternativa, i 100 giorni che, anche se non cambieranno la storia, hanno cambiato sicuramente la mia storia, e per questo non li voglio dimenticare. Arrivano segnali d'apertura e la prospettiva di riprendermi quello che ricordo della mia vita di prima si fa ogni giorno più concreta. Come a Capodanno sento il bisogno di fare bilanci per rimpiangere le occasioni perdute e selezionare quelle che voglio tenere con me quando l'isolamento sarà un ricordo. Queste settimane mi hanno insegnato la lentezza. Tutto ha subito una battuta d'arresto. Ci siamo ritrovati senza ufficio, senza palestra, senza parrucchiere, aperitivi, senza Tinder, senza scuse. Solo noi e quello che ci si agita dentro, che in condizioni normali è sempre disturbato dai rumori di fondo. Rallentare è stato l'unico modo per far rallentare anche i contagi. Le giornate tutte uguali, anche quelle in cui il sole sembrava non tramontasse mai, sono state una sfida, ma ci hanno portato a chiederci quale sia il male minore tra stesse noie. Ho diviso per temi l'impatto della quarantena sulla mia quotidianità e ci ho appiccicato anche delle etichette in inglese. Eccole qua. Slow food. Premessa, non ho imparato a cucinare, non sono stata investita dal sacro fuoco della panificazione, non ho la responsabilità di tenere in vita del lievito madre, però ho un account Uber Eats, perché su 14 pasti settimanali uno ce lo facciamo portare da fuori. Conclusioni, ho mangiato sempre benissimo, cibi freschi, preparati sul momento dai miei coinquilini che diversamente da me sanno muoversi ai fornelli. Lo slow listening. Il sottofondo dei giochi con mio nipote è stata una serie di streaming e podcast in cui ho sentito raccontare storie di Morgane, di geni, di filosofi antichi, contemporanei, ma anche di persone come me che durante la quarantena hanno cambiato città e meditano di cambiare lavoro. Slow talk. Grazie all'ascolto ricreativo di qui sopra ho scoperto il gusto di osservare le idee che prendono forma e come se le palleggiano le persone che ne conoscono il valore, seguendo un'intuizione di Paola che ha invitato me e altre amiche a incontri su Zoom con la scusa di parlare di libri. Ho passato 3 pomeriggi in compagnia di donne che non conoscevo e che hanno accolto la sfida di raccontarsi attraverso le storie degli altri. Slow travel. 2 settimane fa abbiamo preso la bici e da Rotterdam siamo andati a Delft, 13 km in mezzo alla campagna, tra canali e mucche al pascolo, e una passeggiata in un centro storico che sembra uscito da un libro illustrato. Mi sentivo una pioniera, una vera esploratrice, quella che ha inventato il concetto stesso della gita fuori porta, il brivido dello spostarsi, riempirsi gli occhi di spazi aperti, annusare il fascino dell'esotico. Sono pronta per passare l'estate in Lombardia e farmela bastare. Slow job. Che poi a lavorare con lentezza, ma l'espressione slow job ci tengo tanto perché io e i miei colleghi siamo convinti di averla coniata quando l'azienda per cui facciamo traduzioni ci ha chiesto di ridurre la disponibilità settimanale da 24 a 4 ore. So che è utopia, ma lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutti, a volte mi sembra l'unica soluzione percorribile per la ripresa. E poi slow social. Ho una voglia matta di riabbracciare i miei genitori e i miei amici. Non so nemmeno se è consentito. Non credo di doverla spiegare questa. Siamo animali sociali, l'isolamento ci indebolisce. L'abbiamo fatto anche se controvoglia, proprio perché ci teniamo agli altri. Ci siamo inventati la vicinanza a distanza, quelle telefonate di gruppo in cui la connessione è sempre di merda, ci si parla addosso costantemente e c'è sempre almeno un bambino che piange. Però abbiamo risparmiato energie su quei rapporti che ci vanno stretti, a volte negativi, e soprattutto con la scusa di un timido «come si sta lì da te?» abbiamo riaperto canali con persone da cui eravamo allontanati senza accorgercene. E adesso? Adesso non lo so, ma è proprio questo il bello.